Hollywood Party, check in campo. Salutiamo il nostro ospite, Andrea Segre. Ciao Andrea, ciao, benvenuto. Tutti, ci presenterà un film molto duro, molto bello, importante, che è stato presentato ieri al cinema L'Aquila a Roma, con due sale da 200 spettatori l'una, entrambe riempite in tutti gli ordini. È un film bello sugli migranti e storie di oggi, molto sull'attualità. Il tuo film è stato visto ieri sera da 400 persone. Come un uomo sulla terra. Come un uomo sulla terra. Racconta, cerco di dirlo io e poi entriamo nell'argomento, l'avventura, ma non un'avventura avventurosa, un'avventura tragica e tremenda, le avventure di alcuni migranti che hanno attraversato la Libia dopo l'accordo, nelle more dell'accordo tra Italia e Libia, tra Berlusconi e Gheddafi, che ha chiesto alla Libia di contenere i flussi migratori. Questo contenere, che cosa comporta? Cosa succede a queste persone che trovano uno sbarramento a Bengasi? Questa è la domanda che ci siamo posti e che vorremmo che gli italiani iniziassero a porsi. Cioè dal 2003 noi, lo Stato italiano, chiede alla Libia di fermare i migranti prima che arrivino. Si sbandierano i vari accordi, a volte si criticano gli accordi, a volte si chiede a Gheddafi di essere più duro, però non ci si pone mai la domanda cosa vuol dire controllare i flussi migratori, cosa vuol dire per decine di migliaia di vite umane, di ragazzi della mia età, di donne, di giovani, di bambini che vengono da diversi stati dell'Africa, che si trovano ad attraversare la Libia e che dal 2002-2003, ma soprattutto poi negli ultimi anni, si è molto intensificata nel 2006-2007, in realtà si trovano in una trappola completamente alla deriva tra intermediari, contrabbandieri che cercano di portarli verso il nord e polizia libica che li arresta in condizioni terribili, li deporta di nuovo verso il sud e poi per assurdo li rivende ai contrabbandieri che li riportano a nord. Una situazione infernale, una trappola appunto da cui è difficile uscire e da cui poi se si esce il destino è prendere la barca per cercare di arrivare a Lampedusa, quella è l'unica via di uscita. E ci sono appunto decine di migliaia di persone bloccate in questa trappola da diversi anni, tra l'altro in un contesto anche geografico molto duro, perché parliamo del deserto del Sahara, quindi oltre a tutto anche un contesto antropofisico molto, molto difficile. E come avete pensato di poter filmare tutto questo immenso, immane, terribile dramma? In una cucina. Questo è quello che abbiamo deciso, nella cucina di una scuola di italiano per stranieri a Roma, che è gestita dall'associazione Asinitas, che ha prodotto insieme a Zalab il film e che fa un lavoro eccezionale, grandioso, di non solo di insegnamento dell'italiano, ma di costruzione di conoscenze, di dialogo, di relazione con i migranti, un lavoro veramente dal basso, di base, fondamentale. E in questa scuola c'è appunto una cucina dove molto spesso i migranti stessi fanno da mangiare e all'interno di questa cucina, dopo un lavoro di molti mesi di relazione con i migranti e soprattutto grazie al grande apporto di Dagmawi Imer, che è uno dei migranti etiopi protagonista ma anche coautore insieme a me del documentario, abbiamo appunto in questa cucina realizzato una quindicina di interviste, di lunghe interviste che in realtà, per chi poi vedrà il film, più che interviste sono dialoghi fra di loro, condotti magistralmente da Dagmawi, e in questi lunghi dialoghi di un'ora e mezza, l'uno, loro riescono a ricostruire, a raccontare, e sembra funzionare da quello che dicono le persone che lo vedono, e a trasportarti in quei luoghi che sembra impossibile poter a sud di Bengasi. Da una cucina di Roma posso dirti, Tati, avendo visto il film, che Il film ha una magia, una sospensione, è in uno stato ipnotico queste persone che raccontano. Tu sai quanto il documentario, quando è fondato sulle interviste, possa essere legnoso, faticoso, frontale. Invece in questo caso Andrea, non so come tu abbia fatto, è riuscito a restituire uno stato di galleggiamento. Le parole di queste persone, che sono tremende, pesantissime, galleggiano nell'aria, quasi si staccassero, si dalla staccano cucina. Dalla cucina, dai loro volti, e arrivano però diretto alle nostre orecchie, ai nostri cuori. Sentiamo una clip. Che alla fine, se noi riusciamo a arrivare qui, ci danno il permesso di soggiorno. Il riconoscimento c'è quando arrivi qui, però quando stai lì... Una contraddizione. Sì, io quando ero un bambino ho visto il nostro gatto che mangiava uno dei suoi... cuccioli. Sì, uno. Mm-hmm. E faceva crescere gli altri. Quello che è debole. E io non mi piacciono i gatti per quel motivo. Veramente, perché ho visto questa cosa da una parte. E poi quello che è più forte lo tiene. È così che sta facendo l'Italia. Mm-hmm. Quello che riesce a passare il mare lo tiene, lo riconosce. Ma quello che sta in Libia lo fa mangiare da un libico. Andrea, allora, e com'è che queste parole riescono a trasportarti a sud di Bengasi, nel deserto libido, nel Sudan, nei paesi da dove si deve scappare? Ci avete girato, ci avete del repertorio, cosa si vede nel film? Allora, nel film non si vede soltanto la cucina e i volti di chi racconta, anche se i volti sono la cosa a cui io, ad esempio, mi sono di più affezionato poi nella costruzione del film. E si vedono anche delle immagini del deserto al confine sud della Libia, che è un deserto, il deserto del Teneré, dove io sono stato per un lavoro precedente che si chiamava Sud di Lampedusa, nel maggio del 2006. In Libia abbiamo chiesto di entrare, io insieme a Stefano Liberti, che è un giornalista che si occupa di queste tematiche da diverso tempo, abbiamo cercato di entrare in Libia per documentare, per vedere se era possibile, e abbiamo deciso di farlo in maniera ufficiale, cioè abbiamo chiesto al Ministero dell'Informazione dello Stato libico l'autorizzazione a entrare, a poter cercare conferme di questi racconti e dei racconti che avevamo raccolto anche nel deserto a sud nel maggio del 2006. Questo non ci è stato concesso. A questo punto abbiamo deciso di non entrare in maniera furtiva in Libia, ma di rispettare questo divieto e di raccontare usando quelle testimonianze e intrecciandole con le immagini che io ho girato nel maggio 2006 in un deserto che è molto simile a quello che i ragazzi hanno attraversato. E lì c'è stato un lavoro anche molto interessante di scambio con Dagmawi, perché io ho fatto vedere a lui tutto il girato che io ho fatto nel maggio del 2006 in quell'occasione, ed è stato lui a selezionare le immagini non solo in base ad una necessità estetica di montaggio, quello che sta, ma anche in base ai suoi ricordi, cioè cercando di far collimare quelle immagini di un deserto a qualche chilometro, qualche centinaia di chilometri più a ovest, però molto simile al deserto che lui ha attraversato, con il deserto che lui ha vissuto nella sua pelle. Nel suo più corpo. Petrolio, meno migranti, come finirà? Beh, più petrolio credo di sicuro. E meno migranti... Non ne sono così convinto che si possa continuare a gestire sempre e soltanto questo fenomeno attraverso politiche securitarie. Io non riesco ad usare altri mezzi termini, cioè stiamo combattendo una guerra. E questa guerra si combatte con mezzi militari, attraverso polizie internazionali o di paesi terzi. E dall'altra parte si combatte soltanto con i corpi. E io non credo che una guerra di questo tipo possa durare ancora a lungo senza che l'umanità non inizi a reagire. Questo film è presentato da Alessandro Triulzi, Marco Carsetti e Andrea Segre, africanista. Alessandro Triulzi, Marco Carsetti, il coordinatore della scuola. Questo film dovrebbe essere visto in televisione, il suo formato 60 minuti lo richiede, ma non soltanto il suo formato, anche il suo contenuto. Ci andrà mai? Speriamo di sì. Aspettiamo fiduciosi la possibilità che gli italiani sappiano come vengono utilizzati i soldi italiani per fermare i migranti. Grazie Andrea. Adesso che sto qui tranquillo in Italia, vedo la faccia di quelli che mi ascoltano. Così non che è una cosa non, che non puoi immaginare, no? Le cose che gli dici non sembra vero. Non se le aspettano, sì. Rimanere in prigione, che vuol dire restare? Non lo puoi capire. No. Viaggiare nel container. Ti posso fare qualche esempio, no? Come fa caldo, come si può stare lì, ma... Ma non lo saprò mai. Come lo puoi sapere? È difficile, sì. Questa musica sospesa è molto bella, della piccola bottega Baltazar, che ha fatto la colonna sonora del film di Andrea. E se qualcuno volesse avere informazioni su questo percorso, sul percorso del film, cosa fa? Va semplicemente sul sito del film, che è comeunuomosullaterra.blogspot.com. Grazie Andrea Segre.